Caloroso benvenuto, buonasera a tutte le signore e i signori che sono qui presenti. La biblioteca è bella vivace, mi piace questa partecipazione e vi ringrazio. È una serata particolare per tanti motivi. Innanzitutto perché questo è il secondo appuntamento che dedichiamo a un nuovo progetto della biblioteca che si intitola La ricerca in Alto Adige ed è una serie di iniziative che porteremo avanti per il 2014 e poi, perché no, finché ci siamo, abbiamo le forze e non ci manca la fantasia, quindi andremo avanti e tesa a valorizzare gli studenti e le studentesse che ci hanno consegnato il loro lavoro, il loro diploma, la loro tesi di laurea nell'anno precedente. Quindi sono i primi esperimenti, ma siamo molto contenti perché quando contattiamo queste persone rispondono con entusiasmo e noi siamo convinti che dopo tanto lavoro, tanto studio, la ricerca, un impegno non indifferente per concludere uno studio, consegnarlo all'università, discuterlo, darlo alla biblioteca provinciale perché lo cataloghi, non può finire qui, vero? Ecco. Allora abbiamo pensato che sarebbe interessante appunto conoscere un po' più da vicino il lavoro che è stato fatto, le persone che abbiamo premiato, anche perché sono tutte tesi che riguardano il nostro territorio e devo dire che i titoli non li abbiamo lette, però i titoli sono davvero molto interessanti e uno di questi è quello di questa sera che vi presento, il dottore è Andrea Masetti. Ha studiato a Trento, ha discusso la propria tesi col professore Giuseppe Albertoni e con correlatore il professore Emanuele Kurzel, entrambe persone che appartengono al passato mio e anche del mio collega, il dottor Filippi Ermanno, in quanto o compagni di scuola o compagni di università, insomma noi ce li siamo ritrovati, i tuoi due relatori e correlatori. Vi presento appunto anche il collega della biblioteca civica, il dottor Ermanno Filippi, che questa sera fa da padrino, l'abbiamo chiamato così, al nostro dottor Masetti. Abbiamo pensato proprio di confezionare così le nostre serate dedicate al premio Claudio Augusta e alla ricerca in Alto Adige, avere un giovane o una giovane che presenta il proprio lavoro, lo vogliamo seguire e accompagnare nella sua presentazione pubblica con qualcuno che nel nostro territorio ha studiato e conosce insomma la materia di cui si è occupato e questa sera è il turno del mio collega. Ecco. Buonasera. Ne approfitto ancora un attimo, il titolo è Un ramo cresciuto lontano dall'albero, i signori di Mach tra Val Venosta e Valtellina nei secoli XII-XIV. Ecco, la nostra biblioteca poi proseguirà nei prossimi giorni con altre iniziative. Il 20 febbraio, cioè giovedì, sarà la volta di una conferenza sulla Venezia Giulia dal 1918 al 1954, la complessa vicenda del confine orientale italiano, cioè un'iniziativa che noi abbiamo pensato per la giornata del ricordo che cadeva alcuni giorni fa e che però pone le premesse anche per quello che sarà l'anno dedicato al centenario per lo scoppio della Prima Guerra Mondiale e ci sono delle trame chiaramente e dei legami fortissimi con quella che è la storia non solo del confine orientale ma anche dell'Italia e dell'Europa che si intrecciano col conflitto. Quindi partiremo con questa iniziativa il 20 di febbraio e legata sempre alla Prima Guerra Mondiale sarà anche la replica della presentazione del libro del dottor Frangipane, Fame a Bolzano, che presenteremo in una versione un po' più ridotta qui in biblioteca il 24 febbraio. Finisco con gli spot dicendo solo che il mercoledì e il venerdì qui facciamo information literacy, cioè presentiamo il nostro sito, le offerte della biblioteca provinciale e anche della civica in quanto piattaforma multimediale, come si scaricano gli ebook, come si leggono i giornali online e Fabio Ferrarese è a disposizione per far vedere come utilizzare i nostri servizi anche da casa. Grazie, a voi la parola. Devo usare il microfono, mi sentite? Sì, è necessario? Uso il microfono. Ci siamo abituati troppo bene noi, vero? Va bene così, è messo giusto? Sente? Buonasera a tutti. Allora, quando la dottoressa Trevisan mi ha chiesto di partecipare a questa iniziativa, sono arrivato un po' perplesso, perché è vero che io mi sono occupato di questi temi, però ormai in tempi piuttosto lontani. Mi sono laureato anch'io in storia medievale con una tesi analoga, non su una famiglia nobile, su questioni più economiche, ma comunque, però mi sono occupato abbastanza a lungo di temi simili a questi e poi ho proseguito ancora per alcuni anni a coltivare interessi di questo genere. Poi dopo il lavoro, che io ho cominciato a lavorare presso la figlia storica del comune, mi ha portato verso cose più vicine a noi cronologicamente, poi sono passato a, sono diventato collega di Valeria, insomma, in biblioteca civica, dove faccio un lavoro essenzialmente di tipo amministrativo, solo per cui queste cose le ho purtroppo abbandonate, perché ho sempre un po' di rimpianto. E infatti la tesi del dottor Masetti l'ho letta con molta curiosità e con molto interesse, e alla fine anche, insomma, no, con piacere, perché mi sono un po' ritrovato quello che erano i suoi tempi e ho ritrovato quelli che sono alcuni dei temi abituali per la storiografia locale, soprattutto di questo periodo. Intanto delle difficoltà abbastanza notevoli per quello che riguarda, insomma, la ricostruzione. Le fonti sono poche, sono spesso vaghe, imprecise, la ricerca storiografica su questi temi, come poi vi dirà il dottor Masetti, insomma, spesso è datata, è vecchia di molti moltissimi anni, e gli studi che ci sono, ovviamente ci sono stati degli studi più recenti che hanno approfondito, che hanno di molto migliorato la situazione, che hanno portato un quadro più generale, più europeo, insomma, anche gli studi localistici, no? Però non sempre sono andati ad occuparsi dei singoli problemi, delle singole particolarità, ecco, no? E quindi occuparsi di questa cosa, capire esattamente le provenienze di queste famiglie, no? Qui andremo a parlare dei signori di Mazza, di Macio, no? Che da dove venivano, perché, chi erano effettivamente, ricostruirli attraverso le fonti, capire se effettivamente erano, quando si trovano questi nomi ricorrenti, poi Tomasetti vi dichiarerà più in particolare, capire perché, se erano effettivamente di quella famiglia, che non erano agi, che non fossero dei ministeriali, eccetera, così, è sempre piuttosto difficile. Capire poi quali erano i loro rapporti economici, la loro situazione, il loro modo di amministrare il potere, quali erano i rapporti, ovviamente riportare quello, il termine, la terminologia che usa le fonti, no? Le fonti dell'epoca, cioè quello che lo storico utilizza, che quindi sono i documenti, che sono alcune cronache, qui ce n'è una bellissima che poi vi verrà fatta vedere, quella del monaco Boswin, ai concetti attuali, no? È sempre molto difficile. Io non mi voglio annoiare molto, perché voi siete venuti ad ascoltare Andrea Masetti e non il sottoscritto, adesso faremo una chiacchierata così, quindi do rapidamente la parola al nostro dottor Masetti, ma sono sicuro che la serata di questa serata sarà interessante, perché questi signori di Mazia sono qualcosa, per come pensi, come si, come dire, per la concezione così normale che si ha dei signori medievali, sono qualcosa di abbastanza particolare. Poi forse non è vero, perché non è così raro il caso di queste famiglie che passano a cavallo delle Alpi da una zona all'altra, no? E hanno dei rapporti, estendono i loro legami, no? Su territori anche molto ampi, ecco. Mazia, saprete, è in Alta Val Venosta, è una piccola valle, veramente una valle sperduta, molto, molto piccola, molto particolare, insomma, no? Molto alpina, ma questi signori venivano, pare accertato, perché certo non c'è poi, pare accertato, dalla Valtellina, no? Da un territorio che oggi, con la buona stagione, non è neanche così lontano, in macchina, ma all'epoca, insomma, era così. Però un tempo i rapporti, anche attraverso le montagne, anche attraverso le valli, erano comunque più intensi e più frequenti nella zona della Venosta, come altrove, di quanto ci si potrebbe immaginare. Fra l'altro c'è da dire, a nota margine, così perché mi è capitato recentemente di dover parlare di questo tema, che all'epoca si parla tanto del riscaldamento globale, del ritiro dei ghiacciai, all'epoca XII secolo, periodo in cui si inizia questa cosa, i ghiacciai erano più indietro di quello che sono adesso, il clima era più mite, più caldo e più propizio di quello che è ancora oggi, no? Perché è successivamente, verso il XVI secolo, che inizia la cosiddetta piccola era glaciale, che poi proseguirà fino a metà dell'Ottocento, no? Quando col grande avanzamento dei ghiacciai, che è quello che abbiamo in mente noi, no? Per cui ci preoccupiamo. Ma noi adesso siamo in una fase glaciale oppure? Noi adesso siamo in una fase, allora, non si sa neanche questo, è un po' come la storia medievale, la cosa. Siamo in un'epoca interglaciale, siamo in un'epoca di riscaldamento, uh-huh. No? In una fase effettivamente però ancora non dobbiamo ancora raggiungere i livelli di massimo riscaldamento che ci sono stati. Ma se pensiamo anche al, tutti conosciamo la storia di Rizzi, che invece è di un altro periodo ancora, ci sono stati dei sali scendi degli anni, no? Nel corso della temperatura. Questo è un periodo in cui probabilmente determinati valichi alpini, determinati passaggi erano comunque percorribili, no? Per gran parte dell'anno in maniera anche abbastanza agevole. Grazie. Allora. Innanzitutto ringrazio la Biblioteca Claudio Augusta per avermi invitato a fare questa piccola presentazione, anche perché un'occasione di mantenersi in contatto con il lavoro che si è fatto negli studi universitari oggigiorno non è così facile da trovare. E oltretutto dà anche una certa soddisfazione personale vedere che siete venuti, direi, numerosi. Spero, ecco, che sia valsa la pena. Allora, mi ricollego subito a quanto diceva il dottor Filippi. Ora voi vedete proiettata un'immagine che probabilmente riconoscerete, si tratta di Castel Coira. E collegandomi a quanto diceva il dottor Filippi, appunto, stiamo parlando di una famiglia che si chiama Mazia, e abbiamo un castello Coira che è a Sluderno, ma porta il nome di un'altra città ancora. Allora, perché Castel Coira? Perché se vi capitasse di passare da Castel Coira, da Glorenzo, da Sluderno, e guardare verso la torre principale, ancora in questi giorni voi vedreste questo stendardo. Questo è lo stemma della famiglia dei Mac, tre ali blu in campo bianco o argentato, dipendeva, diciamo, dalla miniatura. E questo perché? Perché Castel Coira non solo è appartenuto, nonostante il nome, fu costruito dai vescovi di Coira per controllare e estendere il proprio potere nella Val Venosta nel tardo XIII secolo, diciamo, ma in realtà finì per appartenere ai Mac. Perché? Perché i Mac erano gli avvocati del vescovo, erano coloro che si occupavano degli affari, diciamo, non spirituali della diocesi di Coira. Quindi diciamo che è interessante, diciamo, ho trovato interessante come immagine iniziale, diciamo, portare un castello con un nome che non è quello della località in cui è stato costruito, che viene governato da una famiglia che non ha il nome né della località né diciamo del castello stesso. Ora torniamo, diciamo, all'argomento. Scusate, non sono abituato a fare questo genere di presentazioni, quindi magari mi incarterò un po' sulle prime. La ricerca sulla famiglia dei Mac è nata, diciamo, come in maniera abbastanza improvvisata. Si è trattata di una tesi che mi ha impegnato per 2 anni e che, per essere portata sui binari decisivi, ha richiesto gran parte del suo tempo. La tesi in sé è stata scritta proprio nell'ultima parte di questi 2 anni, perché non avevo ancora capito bene dove dirigere le ricerche. Quando mi sono recato al professor Albertoni a proporgli, diciamo, di seguirmi anche per la magistrale, gli ho anche esposto tutta una serie di argomenti che mi interessava approfondire, come appunto l'avvocazia, la storia locale. Abbiamo una storia medievale locale ricchissima, perché la nostra è una regione che ha visto il fiorire delle sue città, della sua cultura, della sua, si può dire, civiltà in un certo senso, soprattutto nel Medioevo. È una città dove è una regione dove la suddivisione territoriale era talmente frammentaria che i signori, i classici signori dei castelli, che noi possiamo immaginare essere l'immagine, diciamo, più frequente che ci viene dal Medioevo, erano una realtà politica veramente diffusa. E quindi lo studio di una famiglia come questa qui dei Match, permetteva di essere permetteva di portare, diciamo, l'attenzione a tutta una serie di aspetti che erano veramente tipici del nostro territorio. Inizialmente il professore mi consigliò di sfogliare le pagine del Registrum di Goswin, questa fonte che oggi abbiamo portato qui in questa versione che riporta fotograficamente proprio tutte le pagine. Si tratta di una cronaca, se vogliamo, una via di mezzo tra una cronaca e una raccolta di documenti, che venne compilata da Goswin, appunto, monaco del monastero di Monte Maria, che non a caso si trova dall'altro lato dell'Alta Venosta rispetto a Castelcoira. Ovviamente in una raccolta di documenti come può essere questo libro, ci sono riportate le entrate del monastero, le donazioni, le preghiere, i propositi, la storia, la cronologia degli abati. C'è veramente un marasma, un mare magnum di informazioni grandissimo. E quindi anche solo avere questa direzione iniziale non è stato proprio sufficiente a darmi l'idea di che cosa studiare. Quando però ho incontrato la parola avvocato di Mazia, subito è scattato per così dire. Perché? Chi erano gli avvocati? Gli avvocati erano una figura che esercitava del potere, ma non era nobiltà. Non si trattava di nobili, non erano conti, non erano proprietari, non detenevano il potere e la signoria su un territorio per se stessi, ma la detenevano in nome di qualcun altro, appunto, soprattutto di enti ecclesiastici. Quindi praticamente mi sono imbattuto in questa famiglia che doveva rappresentare e difendere gli interessi prima del monastero di Monte Maria, di cui divennero appunto avvocati a metà del XII secolo, e poi anche della stessa diocesi di Coira. È chiaro che nonostante essi non detenessero il potere diretto sulle terre che andavano ad amministrare, avere per le mani gli interessi di un'intera diocesi, che allora contava possedimenti territoriali, ingressi, interessi, persone che vi lavoravano, era un'opportunità di crescita sociale non indifferente. E quindi molto spesso andava a finire che questi avvocati, che avevano oltretutto l'incarico di difendere, all'atto pratico di prendere le armi in difesa dei loro protetti, per così dire, di questi abati, di questi vescovi, andava a finire che questi avvocati, più che difendere chi erano incaricati di difendere, finissero per rivoltarglisi contro. E anche in questo gli avvocati di Match sono interessanti, soprattutto in relazione a un altro importantissimo avvocato, che noi lo ricordiamo come conte, ma che in realtà fu conte per interposta persona, in quanto avvocato del vescovo di Trento, che era Mainardo II, il signore padre fondatore, se vogliamo, in un certo senso, del concetto di contea di Tirolo, del concetto stesso di Tirolo, dato che prese il nome dalla sua famiglia, insomma. Allora, come possiamo discutere questo argomento? Diciamo che partiamo dalle origini della famiglia. Allora, innanzitutto sì, oltre al Registrum di Goswin, ovviamente una volta che avevo deciso di studiare la famiglia Match, non potevo limitarmi soltanto a questa fonte qui, quindi ho dovuto prendere in considerazione anche diversi tipi di fonti. Come ha detto il dottor Filippi, purtroppo la situazione documentaria, soprattutto i documenti che sono stati editi, pubblicati, che quindi sono comodamente a portata, per così dire, degli studiosi, è abbastanza disperata, nel senso che ci sono alcune grandi raccolte di documenti medievali di area tirolese, come per esempio il Tiroler Urkundenbuch di Franz Hutter, che però, se vogliamo, è un'opera già forse un po' indietro coi tempi, in quanto comunque prodotta tra gli anni 40 e 50. Si parla di 50 anni fa, c'erano metodologie di studio abbastanza diverse, e soprattutto la grande pecca del Tiroler Urkundenbuch è il fatto che raccoglieva documenti soltanto dell'area del Tirolo tedesco. erano anni particolari, quindi io non entrerò in discussione di queste cose. Chiaramente bisogna sempre contestualizzare agli anni in cui queste opere venivano prodotte per capire il motivo per cui vennero prodotte in questo modo. Fortunatamente, di fianco a quest'opera, dal lato svizzero, diciamo, della questione, perché vedremo che la famiglia Macci in realtà è originariamente, prima ancora che valtellinese, svizzera. Sul lato svizzero del Canton Grigione è stata prodotta, in due fasi temporali cronologiche distinte, una seconda opera di raccolta, ovvero il Bündner Urkundenbuch, un altro librone che cataloga tutta una serie di fonti, le trascrive, ci sono delle note, un'opera a cura di Otto Klavadecher, che è un altro eminente storico dell'area alpina. Diciamo che laddove il Tiroler Urkundenbuch aveva dei limiti sia dal punto di vista della tipologia di fonti che venivano prese in considerazione, sia dal punto di vista cronologico, perché purtroppo questa raccolta copre soltanto un'area che va dall'inizio del Medioevo fino al 1250. E quindi, visto che la mia ricerca voleva arrivare un po' oltre di un centinaio e mezzo d'anni, diciamo, siamo arrivati fino alla cessione del Tirolo agli Asburgo, quindi siamo 1363 e ancora qualche anno più avanti per questioni proprio di date di morte dei membri della famiglia. Ecco. Invece il Bündner Urkundenbuch procedeva e procede anche avanti per qualche altro secolo. Unitamente a queste fonti ci si è basati anche sulla letteratura a riguardo, che, come detto prima, in alcuni casi è oggi veramente, veramente superata. Per dire, l'unica vera opera di approfondimento incentrata sulla famiglia dei Macci è del 1871-73, un'opera di Justinian Laturnar, che tra l'altro non era neanche uno storico di professione, diciamo, era più uno storico per diletto, appassionato di numismatica, padre francescano tra l'altro. Un'opera scritta in pieno periodo, per così dire, ranchiano, ovvero della storia così, tra virgolette, così come essa era accaduta. Ovvero un periodo storico soprattutto legato all'area tedesca dell'Ottocento, in cui c'era questa convinzione che la storia andava ricostruita fino nel minimo dettaglio, a prescindere da quanto le fonti ci lasciavano intendere. Quindi molto spesso si arrivava, in alcuni casi, riempire dei buchi. La Durner in certi punti veramente, nonostante abbia scritto un'opera di una certa importanza e fatta anche bene, diciamo, per l'epoca, in alcuni punti inventa proprio di sana pianta e butta lì delle idee proprio a volte in maniera quasi, quasi imbarazzante. Ma chiaramente, come ho detto prima, per il Tiroler Urkundenbuch siamo nel 1870, erano altri tempi e la disponibilità di fonti era molto diversa. Quando la Durner si interessò ai Macci, perché anche lui scrisse proprio sui Macci, dovette prendere in mano e tradursi da solo e riuscire a leggere, imparare a leggere da solo il documento originale. Il che, vi assicuro, io ho fatto diversi moduli di paleografia, ma è ugualmente abbastanza parecchio impegnativo. Mentre io, che ho cominciato i miei studi comodamente a 2000 passato, mi sono trovato di fronte a un'edizione nuovissima, si può ancora dire nuovissima, di Christine Roilo, del registro di Goswin, con pratica traduzione in tedesco di fianco, in modo che grazie alla parte in latino ero in grado di capire la parte in tedesco. E questo non lo registriamo. No, ma è chiaro, ovviamente noi si scherza. C'è tantissima letteratura, purtroppo in un certo senso l'interesse della parte italiana riguardo la storia locale avrebbe da prendere appunti da quanto la storiografia di lingua tedesca, soprattutto legata al Ferdinandeum, a Innsbruck, che è il vero cuore pulsante della ricerca storica tirolese. Avremo solo che da prendere appunti. quasi tutta la letteratura che poi ho dovuto prendere in esame, anche tecnica riguardo aspetti del Medioevo, è tutta di lingua tedesca. Comunque, dicevo, grazie al progresso storico, diciamo così, ci siamo trovati di fronte a delle edizioni sempre più aggiornate delle fonti, con degli strumenti utilissimi come, sembra banale, ma l'indice, cercare informazioni su un personaggio senza avere un indice è un disastro, signori, potete immaginarvelo, insomma. Un indice che è stato fatto in maniera ammirevole e che mi ha permesso in un certo caso addirittura di cancellare un personaggio da questa storia di famiglia. Adesso, non voglio perdermi troppo sulle premesse, quindi partirei direttamente alle origini del casato di Medici. Allora, siamo, diciamo per partire, nel 1158. Ok? La Venosta è molto diversa da come è adesso. Clorenza non è ancora circondata da mura, che tra l'altro non furono quelle che vediamo oggi, perché quelle che vediamo oggi vennero costruite dopo il 1499, dopo la battaglia di Calvi. Lorenza, diciamo allora, non ha ancora le mura. Castelcoira non esiste. Il Fürstenburg, che è speculare dall'altro lato della valle, proprio sotto Monte Maria, non esiste. Monte Maria è appena stata fondata ed è appena stata trasferita da Schulz, che è in Engadina, dall'altro lato praticamente della Val Monastero. Il monastero di Monte Maria, che aveva vissuto negli anni della fondazione una terribile povertà e che aveva capito di non poter sopravvivere al di là delle Alpi, se qualcuno di voi è stato in Engadina ha presente quanto il territorio sia ostile, sì. Diciamo, anche oggi che siamo come, anche se allora era un periodo di clima più mite, se vogliamo dire. Il monastero era stato trasferito e aveva trovato la sua fortuna venendo rifondato nella frazione cosiddetta di Santo Stefano sopra Burgusio, dove tuttora risiede. Un bellissimo monastero, tuttora invito chi non l'ha mai visto a visitare. Monte Maria è appena stato trasferito ed è stato posto dai vescovi di Coira, perché comunque si trattava di una fondazione che era situata all'interno della diocesi di Coira, ed è stata posta dai vescovi di Coira sotto la protezione dei signori di Tarasp. Tarasp è un castello e una località tuttora sempre in Engadina, nel bel mezzo dell'Engadina, anche questa abbastanza arroccata e abbastanza inospitale, diciamo, se vogliamo. Ma era la sede di una famiglia abbastanza potente, per quanto potessero essere potenti le famiglie appunto in un'epoca in cui, ripeto, ogni famiglia aveva il suo castello, i suoi beni e combatteva contro quella di fianco, quindi non eravamo come in Francia o in Inghilterra con le grandi baronie territoriali, i regni, i principati. Qui ognuno era nel suo castello e litigava con quello del castello vicino. Era una realtà molto più terra a terra, molto più violenta, se vogliamo. I signori di Tarasp, dunque, simboleggiati nel 1158 da Ulrico III, erano i protettori sia della chiesa di Coira, del vescovo di Coira, sia del monastero di Monte Maria. Tanto che questo Ulrico III, ricordato da Goswin come il pius fondator, il fondatore santissimo, incensato di lodi in qualsiasi passo del registro, non troverete una parola detta, mezza parola detta contro quest'uomo. Il pio fondatore di Monte Maria decide che è un momento propizio per cambiare le sorti della sua famiglia. La famiglia di Tarasp aveva delle notevoli estensioni territoriali, dei notevoli possedimenti territoriali, in parte soprattutto di benefici, vuol dire che deteneva il diritto di riscuotere dei pagamenti, dei beni, a volte in natura, a volte in moneta, a volte in corvée, in lavoro, in tutta l'area dell'Engadina e in diverse aree della Valtellina. Questo perché? Allora, oggi noi abbiamo presente il Passo dello Stelvio e lo immaginiamo come il vero punto di valico, insomma da una parte si va in Val Monastero, però poi dopo è Svizzera, e dall'altra parte c'è lo Stelvio e scendiamo verso sud. allora il passo dello Stelvio non esisteva e la Val Monastero era il vero punto di passaggio. Glorenza perché divenne così importante? Perché era un po' come Merano e Bolzano, al centro di un incrocio di valli. Glorenza aveva la Val Venosta che procedeva da nord, scendeva, insomma, dove adesso c'è l'Austria, dove c'è Passo Resia, da nord. Aveva la Bassa Venosta, diciamo, che procedeva verso Merano, dall'altra parte. Poi c'era la Val Monastero, attraverso cui poi si poteva scendere verso Bormio, verso Poschiavo, verso la Valtellina. E dunque, questi signori di Taraspio, sfruttando queste direttive, queste strade, queste vie di comunicazione, erano riusciti a mettere su la loro fortuna a cavallo della Val Monastero, diciamo, fra l'Engadina e la Valtellina. Che cosa succede nel 1158? In realtà nel 1164, scusate, ho sbagliato. Nel 1164 Ulrico III di Taraspio, sentendosi vicino alla vecchiaia, decide di lasciare, come molti cavalieri facevano in realtà in quel tempo, di lasciare la vita secolare e di consacrarsi a Dio. Per fare questo, ovviamente, deve abbandonare tutti quelli che sono i suoi possedimenti territoriali, deve donarli, deve disfarsi di tutti i beni terreni. E così facendo avvia dal 1160 al 1164 una fitta serie di donazioni a vantaggio della diocesi di Coira da una parte e di Monte Maria dall'altra. Per esempio lo stesso castello di Tarasp, che anzi abbiamo una foto, eccolo qua, lo stesso castello di Tarasp, non so se allora era già così, perché diciamo che è stato abitato anche, se in realtà penso che sia stato abbastanza risistemato, ricostruito. Addirittura metà del castello di Tarasp, la sua stessa casa, viene data in beneficio al vescovo di Coira. Quindi praticamente lui rinuncia a tutto, addirittura a casa sua. L'altra metà ovviamente dovete lasciarla ai suoi eredi, perché nonostante suo figlio Ulrico IV di Tarasp avesse anche egli abbracciato la vita religiosa, gli restava un nipote, Gebhard III di Tarasp, a portare il nome Gebhard, diciamo, gli restava un nipote a cui obbligatoriamente doveva lasciare qualcosa. Ora, questa serie di donazioni che Ulrico III fa al monastero di Monte Maria e alla diocesi di Coira avevano in realtà tutta una serie di retroscena. Innanzitutto, negli anni tra il 1150 e il 1180, l'area tirolese era sconvolta da una guerra che aveva contrapposto gli Appiano ai Tirolo, quindi due famiglie che erano le due famiglie più potenti e i loro rispettivi alleati che se le davano di santa ragione. E una guerra che tra l'altro finì con una vittoria dei Tirolo e la sconfitta degli Appiano, adesso così per dirlo proprio in due parole. Quindi essendo che i Tarasp erano imparentati con gli Appiano, perché adesso qua c'è anche l'albero genealogico, come potete vedere qui. Ecco, Egnone II di Tarasp. No, chiedo scusa, dov'è che eravamo? Moritz Greifenstein. Sì, attraverso i Moritz Greifenstein praticamente i Tarasp erano imparentati con gli Appiano. Questo li metteva in una situazione abbastanza difficile, perché si trovavano dalla parte degli sconfitti. Quindi, se questi territori, questi beni, questi benefici, userò molto spesso la parola territori sbagliandomi, dico subito, se questi benefici fossero rimasti in mano loro, all'atto pratico, una sconfitta degli Appiano loro alleate avrebbe potuto farglieli perdere. Se invece questi beni fossero passati sotto l'ala protettrice di una diocesi, di un vescovo o di un monastero, chi avrebbe più potuto toccarli? Naturalmente loro non avrebbero più potuto sfruttare al 100% le rendite di questi beni, ma si sarebbero anche evitati il rischio di perderli. Adesso questa è ovviamente una semplificazione, non voglio dire che questo fosse l'unico motivo. In realtà Ulrico III di Tarasp, le fonti e non solo Goswin ci lasciano intendere, era veramente un uomo di fede, con una profonda convinzione in quello che fece. Però è chiaro che si trattava anche di un intelligente politico. Allora, viene fatta questa grande donazione. Scusate, mi sto dilungando, adesso arriviamo ai match. Viene fatta questa grande donazione. Pagine e pagine e pagine di prati, masi, mansi, case, uomini che devono servizi, persone che devono fornire formaggio, eccetera, eccetera. Tutto questo viene lasciato in eredità a Monte Maria. Ovviamente l'interesse dei Tarasp era che poi avvocato di Monte Maria fosse stato un uomo di loro fiducia, che altrimenti tutto questo piano arzigogolato sarebbe finito in una grande nuvola di fumo. E chi misero come avvocato di Monte Maria? Gebhard III di Tarasp? No. Ulrico III rifiutò a suo nipote questo onore e lo concesse a un apparentemente ignoto Egnone I di Mach. Chi era questo Egnone di Mach? Perché questo suo consanguineo, come viene descritto dal registrum, quindi Ulrico III di Tarasp concede al suo consanguineo Egnone I di Mach la signoria, l'avvocazia, che poi vedremo si trasformerà in signoria, su Monte Maria. Ma chi era questo Egnone I di Mach? Questo Egnone I di Mach era un lontano cugino che tempo addietro era stato, diciamo, i cui avi tempo addietro si erano separati dal ramo principale della famiglia per trasferirsi ad amministrare beni che essa deteneva altrove. Si parla della prima generazione di Tarasp come quattro fratelli. Allora, Ulrico I, Eberhard, è proprio la prima, non so se si riesce a leggere, comunque, Ulrico I, Eberhard, Gebhard I ed Egnone I. Allora, Gebhard semplicemente rimase come signore del castello, lui era il signore di Tarasp, quindi colui che dava una discendenza, che desse una continuità alla famiglia. Eberhard si fece monaco e fondò, indovinate un po', Monte Maria, il monastero di Schulz, cioè quello che fu Monte Maria prima di essere Monte Maria. Il monastero di Schulz fu fondato da Eberhard di Tarasp. Ulrico I era vescovo di Coira, col nome di Ulrico II, perché c'era stato un altro Ulrico vescovo di Coira prima di lui. Oh, che bello, oh, che bello, Egnone scompare dalle cronache. Noi non sappiamo assolutamente niente di chi cosa facesse, chi fosse, dove stesse Egnone I di Tarasp. Scompare dalle cronache fino a che a un certo punto non compaiono dei suoi probabili discendenti. Dico probabili perché li riteniamo suoi discendenti soltanto perché possedevano dei beni nelle stesse aree in cui i Mach li avevano posseduti, in cui i Tarasp li avevano lasciati ai Mach, e portavano il suo stesso nome. Questa è una, se vogliamo, una tecnica storica chiamata Leitname, ovvero l'uso di attribuire una ascendenza, cioè vuol dire l'uso di ritenere un personaggio figlio di un altro, nipote di un altro, in base al suo nome. Ora non succede molto più spesso, è quasi più un uso delle famiglie di cultura musulmana dare sempre il nome dei nonni ai propri figli. Allora era, non dico la normalità, perché non è mai considerato automatico che un nipote porti il nome del nonno, però era una cosa che succedeva molto spesso, e quindi ci lascia aperta la possibilità che questo Egnone che compare nelle fonti a un certo punto, nel 1130 circa, potesse essere il figlio o il nipote di questo Egnone I di Tarasp. Questo perché? Perché sappiamo che Egnone II, che vedete è un po' più di lato, sono quei due casellini viola, Egnone II di Tarasp ed Enrico, io adesso li chiamo di Tarasp perché sono convinto che fossero di Tarasp, cedettero dei benefici al monastero di Monte Maria, fecero delle donazioni nell'area di Schulz. Quando Monte Maria era stato rifondato sopra Burgusio, diciamo, questi due signori, che portavano un nome, almeno Egnone, un nome della famiglia Tarasp, che nell'area era detenuto dalla famiglia Tarasp, fanno delle donazioni alla creatura spirituale dei Tarasp, ovvero Monte Maria, fanno delle donazioni che vengono dall'area dove i TASP avevano dei possedimenti. Ovviamente, io ripeto, non c'è nessuna certezza, io non sono qui a dirvi che, infatti, questa linea di parentela è tratteggiata perché non è sicura. Però, ovviamente, non voglio essere arrogante da dire di sapere la verità, però è necessario avanzare delle ipotesi qualora ci sia la possibilità. Ci sono degli altri punti che poi potrebbero incoraggiare a pensare in questa direzione, come per esempio il fatto che poi dopo i match ricevettero a loro volta delle eredità dai TASP nell'area valtellinese, ovvero i beni che i TASP avevano detenuto nell'area valtellinese dopo la grande fase delle donazioni a Monte Maria cadde nelle mani dei match. Quando loro ancora avevano un parente vivo, Gebhard Terzo, donavano, lasciavano in eredità ai match. Allora, e qui chiudiamo questa parte qui perché è molto diciamo teorica. Posso fare una domanda? Sì. Tutte queste genealogie come sono state ricostruite? Con la documentazione? Sì. Praticamente, allora, in parte con la documentazione, in parte con riferimenti a studi recenti. Uno studioso che si occupa molto di genealogie qui in Alto Adige e che secondo me è anche uno molto in gamba, perché ho avuto anche occasione di conoscerlo, di parlarlo, è Walter Landi. Sì. Walter Landi, anche lui tra l'altro, se non erro, allievo di Albertoni. Sì, sì. E lui si è dedicato tantissimo soprattutto alle genealogie degli Appiano. Mm-hmm. E ha scritto questo saggio, il Dilectus Consanguineus, in cui traccia alcuni passaggi della genealogia degli Appiano che si collegano obbligatoriamente anche ai match per via di ulteriori parentele che ci sono state. Mm-hmm. Come per esempio Federico I di Appiano, che sposò Matilde di Match, della seconda generazione della famiglia. E quindi praticamente si arriva un po' con le fonti, un po' anche con chi ha studiato altre fonti che io non ho potuto prendere in mano, a delineare una certa quale complessa linea di parentela. Ora qui vedete dove c'è il giallo e il verde, siamo già in 1200, fine 1200, inizio 1300. I nomi sul verde smeraldo qua sotto, diciamo questi qui, ecco, che qui sembra più un verde pistacchio, ma vabbè, sono parte della famiglia Match che si è separata e ha costruito un secondo castello. Ora, in realtà il primo membro della famiglia Match a portare tale nome nelle cronache è stato Hartwig I, documentato per la prima volta nel 1158. In realtà non rivestì una grandissima importanza nella documentazione che ci è venuta, però è interessante vedere come oggi noi siamo in grado di dire che Hartwig I fu l'unico membro della prima generazione dei Match se noi andiamo a leggere le informazioni che ci dava la Durner. Vi erano quattro fratelli. Allora, dov'è? Eccolo qua. Qui non si leggerà assolutamente niente, però vi faccio notare che qui in cima ci sono quattro colonnine: Hartwig I, Matilde, Egno I e Ulrico I. Quindi quattro fratelli di Match. Com'è possibile che avesse pensato a questi quattro fratelli? È una questione legata alla documentazione e alle fonti che aveva a disposizione. Allora, in molte fonti di questa fase, in quando Hartwig compare, viene messo a fianco di una serie di altri nomi, tra cui soprattutto Egnone, Matilde, ma non Ulrico. Cosa ve la faccio breve perché è abbastanza complessa da spiegare, però vi spiego sostanzialmente cosa è successo. Per via di una confusione dovuta al fatto che era stata male interpretata una virgola poi vi farò vedere anche quale punto, era stata mal interpretata la punteggiatura di un documento dai trascrittori, neanche dalla Durner stesso, che in realtà probabilmente fu vittima delle edizioni di fonti che aveva a quel tempo. Theodore e Constantine, mi pare, Moore, che furono due raccoglitori di pubblicatori, diciamo, di documenti medievali, avevano pubblicato questa grande raccolta di documenti a cui lui fece riferimento, sbagliando a trascrivere la punteggiatura. E questo che cosa ci portò a non si riesce a leggere lì, me ne rendo conto, però Huius scambi test squarum. Non si sente. Allora, praticamente i testimoni di questo scambio furono Udarricus, qui pennam levavit, e vedete qua sotto, proprio piccolino, ma qua sotto c'è un punto. Un punto. De Mazze. Quindi Udarrico, che scrisse, il penna levare era un rito civile, non c'erano i notai allora praticamente, c'era una persona di pubblica buona fede che veniva incaricata di redare il documento, e questo documento poi veniva considerato valido, diciamo, veniva considerato un atto ufficiale, poi dopo vennero inventati i notai e le cose che andavano. Quindi questo Udarrico fu semplicemente una persona incaricata di redare questo documento. Ma se noi, in realtà lui non è che non aveva visto questa virgola, aveva messo un'altra virgola qua, quindi Udarricus virgola, qui pena levavit, De Mazze. Allora a questo punto uno dice Ulrico di Mazia che scrisse, e invece no, è Ulrico che scrisse. Poi di Mazia c'erano Egino e suo fratello, Egino, Egno, Egnone, Hagen, se vogliamo, era un nome germanico, poi è diventato italianizzato, se vogliamo, e suo fratello Corrado, poi di Burgusio, Heinricus et frater Eius, Alberone, Albero, Alberto. E, ovviamente, lì per lì, forse non era stato tenuto da conto il fatto che Alberto e Enrico di Burgusio sono due personaggi che compaiono in tantissimi altri documenti, e che quindi se Mach fosse stato riferito soltanto a questo Ulrico, i personaggi legati alla città, al paese di Burgusio, sarebbero stati tutt'altri e praticamente non sarebbero tornate tutta una serie di informazioni. Invece andando a leggere il documento originale, a volte si possono trovare di queste sorprese. Ecco, mi sto dilungando troppo su questi aspetti documentari. Insomma, forse i signori sono convinti, secondo me, che siano comparsi questi, usatelo per favore, questa famiglia di Mazia, perché si chiamano così perché sono di Mach. Cioè di Mazia è la valle parallela alla Valle Nostra, è il laterale della Valle Nostra, e invece la valle parallela alla Valle Nostra prese il nome dei signori di Mazia, questo è vero, ma questo nome non derivava da un nome preesistente in Val di Mazia, derivava da una località valtellinese che è Mazzo di Valtellina. Mazzo di Valtellina, dove se voi oggigiorno andate a fare un giro, andate a visitarla, troverete che vi è il castello di Pedenale dei signori di Mazzo Venosta. Allora è interessante perché questo Venosta, che compare così spesso nelle cronache, nella storia della Valtellina, è legato proprio al fatto che la famiglia di Mazzo, questi signori di Mazzo, detenevano potere in Valtellina, e quindi quando andarono a rivestire la carica di avvocati a Montemaria, dovevano portarsi dietro un nome che gli desse una certa importanza. E allora loro, chiaro, non erano più dei Tarasp ormai, perché i Tarasp si estinsero dopo Ulrico III. Per farla breve, praticamente Ulrico dà il potere su Monte Maria a Degnone di Mac, suo nipote si ribella, guerra e vince Degnone di Mac. Quindi questo signore che era stato per tutta la sua vita in Valtellina, tanto che quando la madre di sua moglie, sua suocera, insomma, era a letto di morte, Matilde di Ratzenhofen, moglie di Egnone I di Mazzo, va al suo capezzale e dicono le fonti che era stata data in sposa in Italia, in quello che allora era il Regno d'Italia, quindi al di sotto della Baviera. Adesso poi qui è complicato da spiegare, però diciamo, viveva in Italia ed era sposata a un uomo potente, ma non nobile, di nome Egnone. E quindi questo Egnone, marito di Matilde di Ratzenhofen, avvocato di Montemaria, stava a Mazzo di Valtellina. Quando poi loro, diventati signori in Val di Macia, costruito poi nel 1250, prima del 1250, diciamo, il castello di Obermatt, conoscono una seconda divisione familiare, cosa succede? Che metà della famiglia si ritrasferisce e continua a controllare i beni in Valtellina e diventano i signori di Venosta, perché dovevano tornare alla loro terra d'origine portandosi un nome importante preso da un'altra parte. Perché, ripeto, loro non erano nobili, non erano conti, non era il duca di Mach, il conte di Mach, il marchese di Mach, no, loro non erano nobili, loro erano semplicemente portavoce e portaspada del vescovo di Coira e dell'abate di Monte Maria. Quindi nulla gli era dato per diritto di nascita, di eredità. Tutto ciò che loro avevano, lo avevano in concessione. Non erano nobili. Ergo, tutto ciò che avevano era il potere che esercitavano e che in teoria non sarebbe neanche dovuto essere ereditario, il potere che esercitavano sui beni di questo vescovo e soprattutto sui beni di questo abate in Val Venosta, perché comunque, ecco, il termine tedesco Finskave è, credo che sia datato, documentato la prima volta verso il 1055, ma comunque la Valle Venosta è sempre esistita, cioè c'era il comitato di Venosta, cioè c'era un conte in Venosta. E chi era questo conte di Venosta? Negli anni che a noi interessano, il vescovo di Trento. Il vescovo di Trento era signore della Venosta, ovviamente era un vescovo, quindi non poteva, almeno in teoria, in linea teorica, essere il signore della Venosta. Allora aveva un avvocato, il signore di Tirolo, che faceva le sue veci dal punto di vista politico. Ma dove? In un posto dove il vescovo non aveva autorità spirituale. Allora ci troviamo in una situazione assolutamente, passatemi in termini, incasinatissima, dove in Venosta abbiamo il vescovo di Coira che detiene il potere pastorale e quindi tutto ciò che riguarda le anime, la fede e anche tutto ciò che girava intorno alla religione e ai monasteri, tutte queste donazioni competono al vescovo di Coira. Ma l'amministrazione territoriale, le tasse, le decime, il fodro, che era questa tassa che veniva versata per ufficialmente per aiutare a pagare le spese di viaggio all'imperatore quando si faceva incoronare, tutte queste cose venivano invece gestite dal signore di Tirolo. In un'epoca in cui i vescovi avevano al proprio servizio un uomo che governava i loro soldati, perché avevano un esercito, c'era l'esercito del vescovo, i ministeriali, l'esercito del vescovo, potete immaginarvi soltanto che conflitti di interessi ci dovessero essere, a che cosa potevano portare. Adesso faccio una domanda, gli Appiano erano avvocati? Gli Appiano anzi ebbero qualche grosso problema con coi Tirolo. Sì, diciamo che ebbero qualche grosso problema con i Tirolo a causa di qualche grosso problema nello schierarsi nella lotta per le investiture, tanto che presero in ostaggio addirittura dei messi del Papa. il toponimo di Appiano è una derivazione da questa famiglia oppure è il contrario? questo lo ignoro. Contrario. Contrario? Sì, perché il titolo è romano. Ah, Pianus, romano. Ah, ok, famiglia. Quindi loro si sono. Sì, uh-huh. Hanno preso. Bene. Di questi mazzi che cosa è rimasto adesso? C'è una torre, mi sembra, a Merano, qualcosa? C'è no, bene? Allora, loro non estendevano la propria autorità fino a Merano, assolutamente, proprio perché c'erano i vicino c'è Porta Venosta. Sì, vicino proprio, c'è una torre, dicono che sia quella dei mazzi. Allora, premetto che ci sono dei limiti entro cui io mi sono dovuto muovere, quindi io ho approfondito la storia dei match fino al 1369, che è subito poco dopo l'annessione del Tirolo agli Asburgo, e in realtà la famiglia si estinse soltanto nel 1504. Mm-hmm. Quindi non voglio dire che arrivo fino a quel punto e poi dopo non so assolutamente niente, però non so, nella fase cronologica che ho studiato, assolutamente a Merano no. Oggi quello che resta dei match sono le rovine di questi due castelli. Questa è la Val di Mazia. La chiesetta non c'era allora, cioè c'era ma era inglobata nel castello. E queste poche vestigia che vedete sono i resti di Obermatsch e Untermatsch, che erano i due castelli, i due effettivi castelli che portavano il nome delle due famiglie di Match. Due famiglie di Match perché prima si sono divisi tra Venosta e Valtellina, quindi una parte è andata in Valtellina e si è per così dire adattata alla vita comunale italiana, che era assolutamente più posata e meno violenta di quella che si viveva qui con la frammentazione territoriale di potere. E questi avvocati poi esercitarono la loro carica in maniera sempre più simile a quella che è quella dell'avvocato di oggi, ovvero portavoce in giudizio di qualcun altro. Invece l'altra parte della famiglia rimase in Venosta e amministrò quando bene e quando male. Vi furono dei momenti di serio contrasto sia col vescovo di Coira che con lo stesso abate di Monte Maria. Infatti uno dei frangenti in cui il nome dei Mazzi è più conosciuto è l'omicidio dell'abate Hermann di Schoenstein nel 1304 ad opera appunto di Ulrico di Mazzi, Ulrico I e non secondo come abbiamo detto fino all'anno scorso, proprio perché quell'Ulrico I di Mazzi di cui abbiamo parlato prima in realtà non era un Mazzi. Comunque dicevo, sono rimasti questi castelli, questi sono i castelli di Reichenberg, loro hanno posseduto, questi sono sempre nell'area diciamo verso Tubre, una valle e una monte, che non furono mai loro ma appartennero alla famiglia di Reichenberg appunto contro cui loro si scontrarono per tantissimi anni. Rimane Tarasp che comunque diciamo che Tarasp sta ai match anzi i match stanno a Tarasp come i Trapp stanno a Castelcoira, ovvero i match discendenti dei Tarasp governarono il castello di Tarasp e i Trapp discendenti dei match, perché i Trapp sono i discendenti dei match ed è per questo che la bandiera dei match, lo stemma dei match sventola oggi su Castelcoira, nonostante in realtà anche i Trapp ormai, se ho capito bene, si siano grosso modo estinti. Assolutamente no. No, ci sono ancora in linea, benissimo, ottima notizia. Allora, e i Trapp sono i discendenti dei match praticamente. Questo è il castello di Pedenale, Torre Pedenale, in Battellina, e Castelcoira l'abbiamo visto prima. Questo è il Fürstenburg, che oggi ospita una scuola privata, se ho capito bene. C'è una scuola provinciale. La storia del Fürstenburg è interessante, nel senso che cosa accade quando, adesso qui salto un po' di palo in frasca, ma si tratta di episodi che comunque magari sono interessanti. Quando nel 1250 morì Hartwig II, lasciò due figli, entrambi in età estremamente giovane, perché alla morte del padre avevano su per giù 12 anni diciamo. E che cosa succede? Questi due figli vengono in un certo senso divisi. Uno resta sotto la tutela degli alleati del padre e un altro resta sotto la tutela del vescovo di Coira. per questioni di eredità e di divisione dell'eredità va a finire che Castel Coira, che era stato costruito di fatto dai vescovi di Coira per tenere sotto scacco i Mach nel loro stesso territorio, perché Castel Coira è alla base della Val di Mazia, uno non si muove dalla Val di Mazia senza passare da Castel Coira, un po' come Glorenza era un passaggio di pedaggio obbligato, perché uno non attraversava la Val Venosta senza, su strade carrabili, senza passare da Glorenza. E allora praticamente venne costruito Castel Coira, ma poi per questioni ereditarie legate al fatto che uno dei due rampolli dei Mach era praticamente sotto la protezione del vescovo di Coira, il castello di Coira finì in eredità ai Mach. Quindi il vescovo perse quel castello, risultato dovette costruirsene un altro, ovviamente questa volta ben distante dall'altra parte, ha lasciato in mezzo Glorenza, e venne costruito il Fürstenburg, che da quel momento in poi, adesso stiamo parlando del momento in cui Castel Coira cade in mano ai Mach, 1297, fine 1200, proprio 1295-97. Il Fürstenburg invece non venne mai diviso in nessun modo, né ceduto in feudo, né dato in beneficio e poi ricevuto all'indietro in feudo, come a volte succedeva. Rimase sempre di proprietà dei vescovi, tanto che i Mach, durante le fasi concitate delle guerre ai tempi del marchese di Brandeburgo, secondo marito di Margherita di Tirolo, i Mach dovettero prenderlo con la forza. E anche in quel caso non gli andò particolarmente bene, perché vennero poi ricacciati. Dunque, oggi dei Mach in realtà resta estremamente poco, sia perché è una famiglia che si è estinta, diciamo, da parecchio tempo, sia perché questi castelli, diciamocelo, non potremmo pretendere che se ne facesse un museo, perché sono veramente delle rovine. Siamo a livello di Castelfeder, per intenderci, rimane veramente pochissimo. Però se andrete a visitarli, a vederli, sono proprio abbandonati, nel senso che quando ci sono andato c'erano le pecore che ci pascolavano dentro. Peccato. Grazie. Ma Mano, vuoi aggiungere qualcosa? Ma sì, aggiungo, penso che sia meno da chiudere, ma comunque una cosa mi ha incuriosito, che non sapevo e che ho appreso appunto leggendo la tesi di Andrea Masetti, che il ramo valtellinese dei Mach, aveva dei rapporti più o meno stretti, adesso non ho approfondito, con Como, quindi con un grande comune italiano lombardo padano, no? E con Como, allora possedevano una casa a Como, possedevano dei beni, e questo significa quindi per la senz'altro che avevano un ruolo all'interno del comune, no? Possedere una casa all'interno di un comune, di una città italiana dell'epoca, vuol dire avere un ruolo politico all'interno di questo coso, pur mantenendo i loro beni e le loro proprietà all'esterno, no? Hanno avuto dei contrasti violenti con il comune, nell'orbita, no? Di Como, proprio per via di un contrasto, e hanno stipulato con Como, ho letto, uno dei tradizionali obblighi che i comuni italiani facevano firmare a tutti i nobili con cui dei distretti, del circondario con cui entravano in contatto o in contrasto, perché era questo rapporto ambivalente, no? Perché la nobiltà costituisce il territoriale dei dintorni per costituire l'entità del comune, poi entrano in contrasto quando il comune si sviluppano delle forze più popolari. C'è l'obbligo, una serie di obblighi, tra cui l'obbligo di residenza, l'obbligo di possedere, nel caso di pagare delle tasse, tutta una serie di cose di questo genere. Questo soprattutto, al di là di questo che per noi è abbastanza lontano, no? Però mi ha ricordato un parallelismo analogo con una grande famiglia locale trentina, quella del Castelbarco, una famiglia analoga, anche questa qui una famiglia non comitale, però una famiglia di grande potere, no? Quindi appartiene a un rango inferiore della nobiltà locale, no? Castelbarco, che sono famosi per il castello di Avio, di San Pietro Avio, no? Un bellissimo castello, che è una famiglia, è una delle grandi famiglie veronesi, anche, no? Pur risiedendo fuori e avendo questo rapporto. E anche questi hanno questo vizietto, no? Di ammazzare prelati. Questo hanno ammazzato addirittura un vescovo, no? perché e qui mi piace ricordare, allora è morto pochi giorni fa, avete letto sul giornale, Monsignor Higinio Roger, no? Che è ricordato per molte maniere, ma per me resta soprattutto uno storico. Lui anche è stato sui interessi principali di là, è stato quello di uno storico, di un ricercatore, e a lui che si deve appunto lo studio sulla ditta del Beato del Preto, che era questo vescovo di Trento che nel 1172 è stato ucciso. I motivi sono sempre gli stessi, i rapporti, questioni di potere, politici, economici, di questo rapporto sempre difficile tra i signori del luogo e il potere ecclesiastico, che viene investito spesso di grande ricchezza, di grande cosa, e poi però questi stessi prelati sono espressione spesse volte delle famiglie, del territorio in qualche maniera, no? Qui abbiamo visto che sono fondatori di monasteri, no? Era la prassi abituale dell'epoca, i Tirolo fondano monasteri, gli Appiano fondano monasteri, i Morit, Greifenstein, i conti di Bolzano fondano monasteri, no? Fondano monasteri, però non è che poi li abbandonano, continuano a voler mantenere un controllo su questi beni, su queste proprietà, l'ha detto prima. No, è una forma di gestione differente del patrimonio, no? E se voi passate poco dopo Arco, Riva e l'Arco, c'è una piccola chiesetta romanica, poco appariscente, però lingo la strada che porta a Riva d'Arco, ed è una chiesa dedicata a San Tommaso, che non è San Tommaso l'Apostolo, ma questo è San Tommaso Becket, cioè l'arcivescovo di Canterbury, che nel 1170 era stato ucciso dagli emissari del coso, e che quindi si inserisce in un contesto più generale, no? Di lotta, di affermazione del potere temporale del Papa in un quadro generale politico. Dedicano la chiesa, e qui viene richiamato la chiesa, no? Nella chiesa ci sono gli affreschi sulla vita di San Tommaso Becket e sulla vita del Beato del Preto, anche lui ucciso nel... Poi che questi prelati non fossero degli stinchi di santo, poi è un'altra questione. Bene, ci abbiamo la conclusione di questa serata molto intensa. Se c'è qualcuno che ha da fare qualche domanda, qualche curiosità. Prego. Volevo chiedere in Valle Nostra come mai c'era questa situazione che gli avvocati operavano per il vescovo che aveva solo la cura spirituale della zona e non governava. E non governava invece, o non era proprietario delle terre, che se ho ben capito sarebbe stato il vescovo di Trento. Io mi sarei aspettato sentir dire ok, il conte che aveva il suo, doveva esercitare il suo potere territoriale, ma non poteva farlo come prelato, si appoggiava a questi signori, che in quel caso erano i Tirolo, e non riesco a capire come mai però subentravano a questo punto quelli che servivano il vescovo, che lì aveva solo potere spirituale. Beh, allora, innanzitutto il potere spirituale del vescovo di Coira sulla Venosta non era l'unico potere effettivo che il vescovo deteneva. Allora, il potere spirituale, quindi l'organizzazione della vita pastorale, delle festività, eccetera eccetera, era un discorso, ma l'amministrazione dei beni di proprietà del vescovo era altra cosa. Allora, a quel punto, anche se il vescovo di Coira non era, perché lo era il vescovo di Trento, il conte della contea di Venosa, egli aveva lo stesso degli interessi sul posto, perché in pratica che rapporti c'erano allora tra questi due, chiamiamoli proprietari? Il vescovo di Trento era l'equivalente dello Stato, per semplificare, attuale oggi. Sì. L'altro invece aveva delle proprietà, anche se è molto semplificata questa uno aveva i diritti, il conte, sì. I diritti comitali sono i diritti pubblici, cioè quelli di emanazione dello Stato, no, per cui anche il fatto i conti sono nominati dal re, poter giudicare controversie, certo. Solo se inerenti i beni del vescovo, perché quando si viene a creare un contrasto fra il vescovo o uomini di sua proprietà, perché erano effettivamente uomini di sua proprietà, e uomini liberi tra virgolette, quindi di proprietà in realtà del vescovo di Trento, è il conte di Tirolo ad amministrare la giustizia, mentre l'avvocato del vescovo di Coira amministra solo la giustizia in caso di controversie fra uomini del vescovo di Coira, a prescindere che questi fossero nel territorio, è come, cioè, erano sotto l'autorità comunque del vescovo, e quindi venivano giudicati e messi in giudizio dall'avvocato del vescovo, perché erano e vivevano su un territorio che teoricamente era del signore di Venosta, ma appartenevano al vescovo, e quindi il vescovo disponeva della loro vita e del vescovo di Coira. Ma quando è successo che il vescovo di Trento ha preso la Venosta? Forse non c'entra con... No. Tornare qualche saltino indietro, comunque si parla di no 1027 era 1027. Praticamente il 1027, ma di fatto non ha mai esercitato un potere, un effettivo controllo sulla vita. Perché si è rimasto sotto. Sì, ci sono. La cosa è la diocesi, qui ci sono i confini della diocesi, arrivano fino a Maia, no? E si fermano, poi la Venosta appunto non è più diocesi. Ma il potere temporale, il vescovo comunque c'è questa viene investito dei poteri comitali sulla comitata del Venusta, ma non li ha mai praticamente esercitati in realtà. Beh, qui si erano anche principi vescovo, no? Vengono chiamati principi vescovi sono dei vescovi che hanno dei poteri temporali, però li esercitano solo parzialmente, dipende, perché il vescovo di Trento aveva il comitato di Venosta, quello di Trento, e poi riceve una parte di quello di Bolzano, mm-hmm. No? Con la però anche questo lo gestisce in una difficile situazione di condominio insieme alle altre famiglie nobili, che sono uno gli Appiano, perché gli altri sono gli altri discendenti dei vecchi conti di Bolzano, che sono i Morit. Comunque, diciamo che è una storia complicata, un piccolo posto con una storia complicatissima, e che, per riassumere un attimo la serata, se a qualcuno piace anche l'idea di approfondire gli argomenti, beh, la tesi ce l'abbiamo, c'è una ricchissima bibliografia, e soprattutto, beh, anche per quanto riguarda questa particolare figura del principe vescovo, c'è un bellissimo libro proprio di Giuseppe Albertoni, che aveva tracciato la storia ancora una decina di anni fa su questa figura molto particolare, anche perché penso che il principe vescovo sia stato così nominato fino a un'epoca recente. Fino al 1803. Sì, esatto, con la citazione. Sì. Nel 1803. C'è una domanda? Sì, c'è il Ferrari, non il vescovo Ferrari, grande arcivescovo che poi non sapeva il tedesco. Nominato da Pio XII, diciamo che non era più principe, però sì. Quasi, però esercitava come principe. Ah, si potrebbe, si potrebbe quasi dire che oggi non vengono più fondati i monasteri, ma fondazioni. Ecco, c'è un po' un omologo nei tempi nostri. Volevo risalire, sì. Io, se è possibile, al termine mazza. Non so se ha fatto ricerche, perché per esempio sono di mezzo Roma, no? E lì era mezzo, mece, eccetera, poi noi avevamo mezzo tedesco, e dall'altra parte del Noce c'era appunto il principe vescovo italiano di Trento, che era medium langobardorum, ossia dagli italiani, no? Noi invece eravamo sotto i Firmian, poi lì a piano, il Tirolo e compagnia, e dal lato invece dove il Noce sfociava sull'Adige c'era il convento degli Agostiniani con le sue proprie potestà, eccetera, e la parte. Quella è una fondazione degli Appiano. Sì. Volevo dire, allora, il termine mazza, perché noi sarebbe mece, eccetera, secondo lei dove derivava? Grazie, no, per allora, la domanda. È un'ottima domanda, tra l'altro no, è importante perché Mechen, scritto Mechen, potrebbe essere, non mezzo, poi italianizzato prima ancora del fascismo. Noi fino al 18 eravamo mezzo tedesco, oppure Krommet, poi c'era Obermetz che era il monte in mezzo a corona, no? Sì. Tipo Oberfemberge di Favonia e Unterfemberge, no? Favonia di sopra e di sotto. Ma noi ci sono ancora, noi conserviamo ancora, ecco, monito per voi Bolzanini, la vera toponomastica in Piazza della Chiesa, che l'abbiamo fatta conservare, ossia piazza Franz Josef Platz e sotto piazza Francesco Giuseppe. 30 metri più là, tra la chiesa e di rimpetto al municipio, abbiamo, quando sono arrivati gli italiani nel 18, piazza Vittorio Emanuele III. Poi c'era l'antica via, l'unica che arrivava al centro tra chiesa e municipio, Rathaus, lì, no? Che era Cavalleggeri d'Alessandria dopo il 4 novembre. Quella delle povere vedove, abitanti ancora nei palazzi del centro storico, che non avevano più soldi, tramite contributo del comune del 70% per rivalutare, diciamo, la pittura, l'hanno lasciata cancellare. Mentre il viale ancora che porta alla stazione è mezzo ancora dal imperatore Carlo, come siamo mezzo lombardo, no, si trattava di un altro, è giustificato per noi sarebbe la vita. C'è ancora una domanda? No, ma penso che sia proprio collegato a due località completamente diverse, anche perché molto spesso delle parole così brevi hanno degli omonimi a decine, centinaia, penso solo a Metz in Francia, che traslitterate e trascritte da monaci che probabilmente sapevano appena scrivere, venivano stravolte con le lettere e diventavano cose completamente diverse. Quindi in realtà fare dei collegamenti così su due piedi è abbastanza datato, secondo me. È chiaro che per lo stesso motivo per cui ha dato tre collegamenti, nessuno può dire che sia il contrario. C'era anche... Però non è proprio così, no? Perché mi è venuto in mente un episodio. Eravamo stati qui con le associazioni archeologiche di Bolzano, dai Camuni, no? Della scrittura Camuna. Di vicino c'è ancora un'antica chiesetta romanica con il marmo di Lasa, e il curato paesano gli diceva: non so come abbiamo fatto a trasportare il marmo da Lasa lì. Penso che c'erano delle vie di comunicazione importanti. Comunque la strada per il Brennero era la via degli imperatori, era chiamata la via degli imperatori, quindi tramite montagna, probabilmente tramite tonale, tramite quella era, no? Da giù in questo caso, è la parte alta, no? Ma per trasportare del marmo, lei dice che lo trasportavano per quelle vie? Il curato stesso dice, se costruivano un falso piano come quello che c'è a Lasa, la vedo dura. Allora, c'è ancora una domanda, mi sembra, vero? In fondo ho visto... È strano che sia stata presentata come non nobili, eccetera, che sicuramente da un punto di vista della diplomazia e della genealogia non c'è dubbio. Strano perché il signor Kögel nel suo trattato sulla sovranità dei principi vescovi di Trento, del trattato del maggiore peso, sostiene che i Match sono stati l'unica dinastia che si è tenuta libera di Tirolo e quindi aveva un potere di interdizione e un potere effettivo, al di là di tutte le questioni giuridiche, se uno è targato colera. Ma su questo io le do assolutamente ragione. Quello che io volevo sottolineare è che loro non detenevano dei titoli di nobiltà, loro sono stati conti soltanto dopo l'unione familiare con i Kirchberg, ma il fatto di non essere conti e di non essere nobili sulla carta non voleva dire niente. Ciò che contava era il potere effettivo che loro detenevano. Ma io non è che sto dichiarando, volevo segnalare, dimostrazione, volevo segnalare che il potere dei match fu un potere estremamente importante, ridotto a pure questioni araldiche, anche se è stato detto, attenzione, che erano potenti, che eccetera, ridotto la funzione politica, economica, sociale di una famiglia non può essere solo ridotta alle questioni araldiche. È indubbio che i Marx avessero un ruolo di gestori del potere. E la risposta della domanda da dove deriva il nome, bisognerebbe conoscere il concetto della mazza nell'ambiente svizzero. Loro sono i conti del mazzo e non c'è dubbio che non ci sono considerazioni. Mazzo voleva dire qualcosa di estremamente importante e che possiamo tradurre banalmente in capobanda, proprio mazzocchio. Sono coloro che gestiscono la vita, cioè io li chiamerei semplicemente dei notabili, perché è ora di spazzare via tutto quel ciarpane di tipo tradizionale degli storici, i quali si legano a questi titoli e conservano questi titoli senza mai constatare la realtà, diciamo, potente di lungo periodo. In altre le nostre, i Mach erano dei dinasti. Ma questo è vero? Definisce, così li definisce, e io sono d'accordo con lui, tra altre vie, insomma. Ma loro lo furono, tanto che trasformarono quella che doveva essere una carica teoricamente blanda in una cosa dinastica. Tanto per capirci, non è che lo amo, ma insomma, anche Berlusconi, se uno si lega, dice era un costruttore di Milano 2. Alla fine, uno storico, mi scuso, non è che era solo per creare una situazione di comprensione più approfondita, alla fine i Mach erano i dinasti, cioè riuscirono a mantenere una cosa e vennero fatti fuori, mi dispiace che giustamente la ricerca non è arrivata fino all'epoca, sono stati fatti fuori direttamente dagli Asburgo proprio perché erano dinasti. E quindi più che una casa a conto era importante che alla fine erano veramente consorti, e qui lo uso in termine araldico puro, cioè consorti vuol dire un'alleanza stretta di clan che dura per secoli, va bene? Consorti con i Visconti. I Visconti de Nostra sono gli eredi dei Mach. E sono gli eredi dei Mach fatti fuori da in De Nostra, degli Asburgo. Questa è la realtà. Per cui benissimo studiare i documenti, e sono ben felice di aver avuto buone notizie e aver avuto cose da imparare, perché ho preso appunti, mi è piaciuto molto. Però io temo che a forza di enfatizzare i ruoli araldici, che è una situazione tipica della storia qui locale, in cui invece che dire questo palazzo serve a questo, era questo, arriva qui, basta scrivere una targhetta che è appartenuto a Caspar von Reitenberg, poi dalla famiglia Schopenhauer, poi al medico Metzger, poi il coso, e quella è la storia la hie, per capirsi. Ecco, è ora di finirla, se vogliamo fare una storia, non dico all'italiana, ma all'europea. Sembra che gli Asburgo abbiano dichiarato una guerra che si è rivolta contro di loro e siano spariti dalla scena anche in Austria. È ora di finirla. Io mi chiamo Concino De Concini e ho tutti i miei timbri araldici, se voglio esporli. Non è che sto dicendo sciocchezze. Non si deve fare la storia con i titoli araldici restando ai titoli araldici. Questo sto dicendo. Ringrazio il signor De Concini che ci ha illustrato, ecco, un punto di vista e una prospettiva diversa da quella che abbiamo sentito questa sera, in realtà, anche se ci sono dei punti convergenti. No, ma diciamo che la cosa che a me fa più piacere di tutta questa serata, che mi porto a casa e spero anche voi, è che riusciamo ancora a scaldarci per una storia lì 9-10 secoli fa, che le cose tutto sommato non sono cambiate molto, perché la trama è sempre complessa, omicidi, il potere fa gola a tanti, e quindi che fosse una società, diciamo, più organizzata secondo degli schemi appunto nobiliari, feudali, eccetera, oppure come oggi che siamo in una situazione dove la nostra società non segue più questi schemi araldici, per cui ce li siamo un po' anche così lasciati oltre, diciamo che mi fa piacere vedere che sono argomenti che hanno impressionato il nostro pubblico, sicuramente l'avrà incuriosito. Ringraziamo tantissimo il nostro giovane studente, il dottor Masetti, perché ha fatto un lavoro eccellente, l'ha consegnato a questa biblioteca e ci ha aperto delle prospettive, forse ha aperto anche al pubblico delle nuove curiosità. Lo stesso dottor Filippi ci ha dato dei suggerimenti ulteriori, ci ha stimolato, e quindi chissà, magari non finisce qui. No. Andremo avanti. Grazie.